Stanno succedendo cose turche, me la passate. Ciao Fio Suardi. Ciao, buongiorno a tutti. Costan Peterson, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, sono a Ginevra, ma vi saluto con grande affetto. Lo so, sei a Ginevra, questo è uno dei tanti argomenti di settimana, perché a fare l'ambasciatore, coach, passaggio decisivo per l'assegnazione dei mondiali 2014, l'Italia li vorrebbe, ma li vorrebbero anche Spagna e Cina. Cosa succede oggi a Ginevra? Innanzitutto bisogna dire che non è il passo decisivo, è il primo passo molto importante, e ovviamente, come dico io, è come il primo quarto di una finale scudetto, che ci saranno altri tre quarti, forse anche uno, due, tre supplementari, perché dopo la FIBA verrà in Italia a far visita e ci saranno altre cose, quindi a spiegare a tutti quelli che votano, perché non è solamente tre persone della FIBA, è la FIBA interamente che deve votare, quindi è una cosa molto complessa e molto complicata, però io sono quello che sono sul palcoscenico per i 20 minuti oggi della presentazione dell'Italia. Presento Silvia Battisti, Miss Italia, che sarà di compagnia per fare questo Sandro Gamba, Charlie Recocati, Gianni Petrucci, Dino Meneghin, uno alla volta, poi anche i filmati. Come voi state facendo adesso, conducendo un programma radio, come ho fatto io conducendo programmi televisivi, più o meno la stessa cosa, con ovviamente i problemi degli impianti, il sonore e tutte le altre cose che vanno insieme, però speriamo che vada bene, che l'Italia faccia un bel primo passo. Speriamo, anche se i competitor sono Spagna e Cina, a pensare a fare un confronto degli impianti tra quelli italiani e quelli che hanno ospitato adesso le Olimpiadi, quelli spagnoli che sono meravigliosi, è dura, coach. Esattamente, è una concorrenza spietato, sono super organizzati, per esempio racconto solo questo, la Spagna, in questo albergo qui, la Mandarin Hotel qui di Ginevra, c'è un ufficio della FIBA, ok, la FIBA è quello che decide, di fronte a loro Spagna ha preso la stanza, ha aperto l'ospitality della Spagna lì, tanto per dire, noi Italia siamo in fondo qui, abbiamo fatto una conferenza stampa, adesso c'è il pranzo e guarda caso, quando gli italiani fanno pranzo, tutti gli altri spagnoli, argentini, tutti quanti sono arrivati lì a far pranzo tra di noi. Però per dire, gli spagnoli sono seri, veramente seri per questo, e la Cina non se ne parla. Coach, dalla FIBA all'NBA, perché c'è già una cosa che volevo chiederti, è un messaggio. Il messaggio dice, lo scrive Omar, Messina a fine contratto e Sam Mitchell via da Toronto. È banale immaginare l'allenatore italiano sulla panchina dei Raptors il prossimo anno? È possibilissimo, okay? Perché sappiamo che Maurizio Gherardini è l'assistenziano manager, vicepresidente lì, che ha voluto essere a Treviso, sono in grande rapporto tutti loro due, c'è Brian Colangelo che è il grande credente negli allenatori formati in Europa, ha ingaggiato lui Mike D'Antoni a Phoenix, e sappiamo come è andato benissimo Mike D'Antoni a Phoenix, quindi ci sono queste presupposte. Poi bisogna anche mettere che Ettore è super fluente in inglese, ancora più perfezionato con questi tempi in Russia, quindi poi Ettore ha la laurea, che è una cosa importante, economia e commercio, cioè, poi non se ne parla della qualità di allenatore, il curriculum, quello che ha vinto lui, quello che ha fatto lui, quindi se c'è un allenatore in Europa preparato per fare questo salto, è Ettore Messina. Seconda cosa, Bellinelli oggi dice in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: non vedo l'ora di andarmene da Golden State. Era ora, finalmente si arrabbia anche Bellinelli con Don Nelson. Well, esattamente, quel Don Nelson non è più il lucido Don Nelson che io ho sempre stimato, rispettato, cioè una persona adesso che... Cambiamo discorso per un secondo, non parliamo di Bellinelli, parliamo di questo ragazzo Morro che ha fatto il debutto per Nelson in una partita NBA, non un amichevole, la partita NBA facendo 37 punti. L'altra partita, l'ultima, non è entrata, non esiste questo. Uno che fa 37 punti in una partita mi farà 5 minuti, 10 minuti, 8 minuti, ma non è entrato seduto in panchina come Bellinelli. Bellinelli è una partita NBA quest'anno, ha giocato benissimo, non è possibile giocare bene e poi non entrare. Io rifiuto di credere queste cose. Io vi invito anche a partecipare, 800 24 0024, è il numero verde, tanti temi come detto, da Bellinelli che si arrabbia, intervista di oggi con il suo allenatore Don Nelson che non lo fa mai giocare, a Sam Mitchell che va via, e da capire se questo potrà essere un bene per Andrea Bargnani che con Mitchell non ha mai avuto grande feeling, ma tanti anche i temi italiani. Coach, Armani CSKA dell'altra sera è stata secondo me fin qui la partita più bella della stagione, non tecnicamente ma emotivamente, sembrava di vedere in alcune fasi la tua Milano, per la rabbia che aveva. Guarda, bisogna riconoscere che è stata forse la più grande vittoria della squadra di Milano negli ultimi 10-15 anni, cioè da quando hanno vinto lo scudetto 96 certamente, okay? Quindi, ma anche per diversi motivi, perché francamente non hanno vinto un titolo, un premio, una coppa eccetera, però hanno vinto qualcosa forse di più importante, cioè hanno conquistato il pubblico, hanno conquistato la stampa, se ne parlano tutti. Io lo metterei questa vittoria che è anche una, diciamo un premio per dirigente, per staff tecnico, per il giocatore, per la società, per lo sponsor Giorgio Armani e tutti quelli che sono associati con la società, un premio anche per loro. È stata una vittoria per me veramente da, ma anche come è sviluppato sotto di 20, ma di più di 20 punti, rimontando e poi giocando canestro a canestro con loro fino in fondo, trovando la chiave per la vittoria. Cioè è stata una delle vittorie più storiche nella storia della pallacanestro, dell'Olimpia Pallacanestro Milano, va lì in alto con grandi risultati. Ovviamente non hanno vinto un titolo, però quello che hanno fatto, secondo me, dopo 10 anni più o meno di difficoltà, poi c'era anche finale scudetto e nel 0-5, non voglio anche dimenticare, certo, questo, però come impatto sul pubblico e del mass media e la mente della gente è stata una cosa davvero eccezionale. Sì, poi adesso da ora in avanti capiremo quanto vale realmente Milano e se quest'anima è quella definitiva. C'è anche da dire dall'altra parte cose che il CSKA è nel suo inverno tecnico, perché è il momento in cui Messina mette le basi. Vittoria di un punto a Belgrado una settimana prima e poi è arrivata la sconfitta, Messina molto arrabbiato dopo la partita, come è normale che sia, è una squadra in costruzione che diventerà la squadra da battere a primavera quando i giochi si faranno importanti. Quello che è successo e succede nel sport, vanno sopra 17 punti del primo quarto, pensano che sia una passeggiata, tirano un po' le remi in barca, si rilassano un attimo, Milano non ha più niente da perdere, rischia un po' tutto e questa volta pescano anche il jolly, prendono coraggio, vanno avanti, cioè Cesca non riesce più a schiacciare l'acceleratore, ci sono tanti fattori che vanno insieme per una sorpresa di questo tipo qua. Comunque Milano l'ha fatto, non lo può togliere da loro nessuno, è una cosa, io non dico che andranno al top 16 o andranno avanti, a questo punto io dico, spero di sì, ma non mi interessa più di tanto, hanno fatto una cosa più importante di questo passaggio, hanno conquistato pubblica l'immaginazione della gente, a Milano se ne parlano tutti, certo, okay? Come voi sapete benissimo, e anche mass media, stampa, televisione, noi stiamo parlando proprio in questo istante qua, e per il futuro della società, secondo me anche il campionato, questo avrà anche un impatto importante. D'accordissimo, Milano è così, si conquista in questa maniera, Flavio. Coach, campionato, derby di Bologna, tu lo hai vissuto sicuramente nella tua carriera di allenatore, insomma non devo chiederti altro, ecco, dici tu insomma. È quello che a tutt'oggi ha il miglior record nel derby di Bologna, 9 vinte, una persa. Esatto, non credo che supereranno questo record nei prossimi 1000 anni, però e non dovevo neanche perdere quello che ho perso, questa è la cosa che mi fa rabbia ancora, però è chiaro che il derby è una cosa speciale. Io che ero straniero, venuto da fuori, cercavo io nella mia maniera di smontare. Purtroppo è caduta la linea, cercava la sua maniera di smontare probabilmente e ci riusciva. Adesso proviamo o forse anche di smontare l'attesa, perché sappiamo bene che il derby di Bologna vuol dire una tensione massima, probabilmente paragonabile a un derby Roma-Lazio nel calcio. Esatto. Dunque è Roma-Lazio della pallacanestro, il derby di Bologna. Anche se non è più il derby di Djordjevic contro Danilovic, il derby che assegnava gli scudetti, eccetera. È tornato ad essere un derby tra una grande squadra, secondo me la Virtus, e una squadra con grande talento ma ancora molto difficile da leggere come la Fortitudo, che però ha operato sul mercato. È arrivato Gregor Fuchs, è arrivato Papadopoulos, anche Strawberry ha fatto un esordio. Strawberry ha fatto, quindi cioè, la GMAC, che è lo sponsor della Fortitudo Bologna, la GMAC, dicevo, è una squadra che sicuramente è in evoluzione. Papadopoulos è un buon giocatore, sicuramente è un giocatore, diciamo, alla Bagaric, forse un po' più mobile, anzi sicuramente un po' più mobile, anche perché non ci vuole moltissimo, e a centimetri è quell'intimidazione che forse mancava alla Fortitudo Bologna. Siamo curiosi di sapere cosa smontava il coach, cosa voleva smontare il coach, che è tornato. Ah, ragazzi, è caduta la linea e mi chiede scusa. Noi cercavo di smontare la tensione dicendo il derby è una, non è che ci diano 4 punti in classifica, ci danno 2 come qualsiasi altra partita, ma è chiaro che i giocatori, vivendo in città, sentono tutti i tifosi, sia dalla loro parte che dall'altra parte, e la tensione c'è ovviamente, e posso dire che dopo ogni derby io mi sono buttato a letto e ho dormito, non so, 12 ore di fila per la stanchezza psicofisica. Quindi è una partita, e questa volta due squadre in salita, la Virtus che penso che abbia vinto 4 in fila in campionato, la Fortitudo dopo un momento difficile, avete detto voi, preso Papadopoulos, quindi fra due squadre che all'inizio dell'anno avevano delle grandi promesse e adesso sono promesse serie. Grazie coach, buon lavoro, oggi è importante, mi raccomando. Ciao ragazzi, grazie. Okay, ci sentiamo venerdì, grazie coach. Una curiosità di campionato anche, perché c'è in programma Air Avellino Montepaschi Siena. L'anno scorso fu proprio Avellino ad interrompere la serie di vittorie di Siena, 13 in campionato. Flavio, stavolta arriva alla nona. Non però mi pare aria. No, assolutamente non è aria. Vista no. La Siena di questo momento, fosse stato un mese fa, poteva essere aria. Così mi sembra difficile, anche perché Siena, insomma, anche l'altra sera su un campo non semplice come quello del Procom, ha giocato, sai come, da grande squadra. Vittoria da grande squadra. Anche perché in mano, sì, giocando una partita da 83 punti contro una squadra che ne subisce normalmente 20 di meno. E dunque questo è anche da grande squadra. Da, l'approccio delle squadre che sicuramente saranno protagoniste fino alla fine della stagione, anche in Europa e ad altissimo livello. Primo ascoltatore di oggi da Livorno, Alberto, buongiorno. Buonasera. Salve. Buongiorno. Yeah, io volevo approfittare della presenza anche di Dan Peterson, che però ho sentito che se n'è andato, sì, per chiedere come mai secondo voi la pallacanestro ha perso interesse in Italia, dico, rispetto a 15-20 anni fa, ovvero se ritenete che prima c'è stata un'unità dell'NBA, della televisione, che questo aveva spinto molto, mi ricordo che c'erano palazzi pieni. Oppure adesso insomma, è passata un deliziale, la cosa è andata a scemare. Una domanda epocale, Alberto, questa è difficilissimo. No, ma è una crisi domanda, comunque, Alberto, che credo sia generalizzabile. Vediamo anche gli stadi vuoti, no? Gli stadi del calcio che sono desolanti, oserei dire, più dei palazzetti della pallacanestro. Io credo che basket stia scontando comunque, per il basket più che per il calcio, l'assenza di identificazione da parte dei tifosi con le squadre, pochi italiani, squadre che cambiano di continuo. Però credo che questo sia, almeno come feeling, questo è il fattore più importante. È difficile identificarsi nelle squadre che andiamo a tifare. Però non credo che la crisi, ad esempio, sia la crisi del pubblico sia grave come nel calcio in questo momento, perché tutto sommato i numeri dicono come da qualche anno la pallacanestro viaggi su livelli di stabilità dei tifosi nei palazzetti. Sì, anche perché forse da questo punto di vista contribuisce il fatto che gli spazi televisivi, soprattutto in chiaro, dedicati alla pallacanestro sono esponenzialmente minori rispetto per esempio a quelli del calcio, e dunque non si soffre di questa di questo malcostume, se vogliamo, di guardarsi la partita in TV invece di andare al palazzetto, anche se insomma Sky per esempio fa un ottimo lavoro sulla pallacanestro, questo l'abbiamo sempre detto. Sì, no, ma sono comunque, credo siano tanti fattori che hanno allontanato un po' la gente dai palazzetti. Io continuo a pensare che ad esempio i risultati della nazionale, quella medaglia d'argento di Pechino, perché la nazionale è sempre il treno che guida il convoglio, no? Sempre la locomotiva. Credo che quella medaglia di Pechino non sia stata venduta benissimo, venduta tra virgolette. Atene, sì, di Atene. a Pechino, ciao. Tu eri là, tra l'altro. No, beh, ma questo è un errore che la pallacanestro fa normalmente, nel senso che tutte le volte che la nazionale vince una medaglia o raggiunge un traguardo, si dice sempre: adesso dobbiamo utilizzare questa vittoria per promuovere il nostro movimento, per migliorare a livello di immagine, per avere più spazio. Così. Io l'ho sentito dire addirittura da Sandro Gamba dopo le Olimpiadi del 1980 a Mosca. Sì. Siamo nel 2008. No, ma poi altro elemento che si può aggiungere al discorso è nella, insomma, un po' nella crisi che è stata lunga, adesso sembra superata, delle metropoli che sono, piaccia o no, determinanti per la sorte del movimento. Adesso Roma comunque da qualche anno ha una squadra stabilmente di alto livello, almeno in Europa per il momento, ma arriverà anche la Roma formato campionato. Milano, insomma, l'altra sera c'erano, tutto vero quello che ha detto prima Coach Peterson, e tra poco torniamo sull'argomento, però l'altra sera in una partita di Eurolega in cui c'erano i campioni d'Europa, in cui c'era Ettore Messina, quindi comunque un grande spettacolo il CSKA di questi anni. So dove vuoi arrivare, c'erano 3.450 Bravo. Persone. Allora è vero che Milano ha fatto breccia, però ha fatto breccia in 3.400 cuori, in quel palazzetto ce ne stanno molti di più. Arriveranno con i risultati, questo è certo, arriveranno con una squadra che saprà farsi amare, io credo, questa Milano dal cuore grande. Ha ancora dei difetti, Tra poco ne parliamo. 800 24 00 24, numero verde. Palla spicchi. Eccoci tornati. No, sarebbe il caso di approfondire il discorso Milano, anche perché abbiamo diversi messaggi sull'argomento. 349-238-6666, il vostro contatto per gli sms. Telefonate 800 24 00 24. Ero al forum, che spettacolo, scrive un ascoltatore, un altro, Roberto Dalodi. Ragazzi, io c'ero, che spettacolo l'Olimpia quando gioca da Olimpia, e che spettacolo i tifosi in quel caso. È chiaro che Milano ha bisogno di questo, tanto per cominciare, per scaldarsi e per emozionarsi, perché emozionarsi mi sembra la parola giusta. È un piacere avere in linea il coach dell'Armani, Piero Vucchi. Ciao Piero. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno coach. La classica partita per indirizzare la stagione, questa, ho l'impressione. Io non cambio la mia idea su Milano, perché devo essere onesto fino in fondo. Secondo me mancano ancora alcuni ingredienti per farne una grande squadra. Ma adesso è comunque una squadra con un'anima grande, Piero. Beh, l'anima grande l'abbiamo avuta anche nelle partite che si perdeva, perché credo che comunque la squadra possa essere stata... è stata un po' criticata in passato, però ricordiamo che abbiamo avuto tanti infortuni e soprattutto... credo che la squadra abbia sempre combattuto, quindi quest'anima di cui parli credo che effettivamente ci sia sempre stata, sia sempre stata messa in campo dai ragazzi, e effettivamente l'altra sera abbiamo fatto probabilmente uno sforzo ulteriore, e questo ha permesso al pubblico di scaldarsi. Concordo con te che in effetti forse non siamo perfetti, non siamo forse una macchina da guerra, però siamo una macchina che di sicuro ha un cuore, c'è un'anima, come tu dicevi. Una macchina che sta imparando ad utilizzare anche tutti i propri cavalli. Per esempio, io vedo un Michael, per esempio, che noi abbiamo, che io stesso avevo criticato aspramente da questi microfoni, che sembra un giocatore rigenerato, forse anche, correggimi tu se sbaglio Piero, anche da un impiego diverso rispetto all'inizio della stagione. Beh, ma sai, l'esperienza conta, L'esperienza conta, lui probabilmente è venuto qua, come accade a tanti ragazzi inesperti, anche un po' tra virgolette presuntuoso, senza voler essere offensivo, perché l'americano viene qua pensando che qua ci sia effettivamente un basket non di grande livello. Poi quando ci sbatti il naso, effettivamente i primi tempi rimane un po' spesato, poi se sei intelligente ti adegui e migliori. Così ha fatto Michael, e credo che ultimamente abbia di sicuro migliorato il rendimento da quando lui ha cambiato modo di giocare e di approcciarsi alle partite. Abbiamo acquistato un americano in più, recuperato qualche infortunato, e di conseguenza la squadra ha ovviamente un altro aspetto. Direi che ormai sono già 5-6 partite che la squadra sta facendo vedere cose diverse, perché appunto abbiamo l'ossatura completa e soprattutto un po' di esperienza in alcuni in più. Coach, serviva un leader, no, all'inizio di questa avventura. Doveva essere Hawkins quello designato, forse è Hawkins quello che sarà, o che è già, questo me lo devi dire tu, il leader di questa squadra. Secondo me è un giocatore che comunque deve dimostrare di aver trovato continuità di rendimento per poter dire che è il leader di questa Armani. Sono d'accordo con te, è un giocatore che deve dare continuità, è un ottimo giocatore, per fare l'ulteriore salto di qualità deve effettivamente provare a dare continuità al suo rendimento, però credo che sulle qualità del ragazzo non si discuta, e effettivamente penso che in questo momento il giocatore che alla fine a momenti importanti viene cercato, di conseguenza a questa leadership che gli viene un po' riconosciuto dal branco, diciamo. E quindi effettivamente è un giocatore per noi oltremodo importante. Scopriamo che Bulleri resta. Resta a Milano, coach? Ma Bulleri resta a Milano anche perché, ti ripeto, noi abbiamo giocato due partite al completo. Sì. Quella di mercoledì. E a Pesaro. Esatto, e a Pesaro. Quindi, insomma, alla fine, prima di bocciare il tutto, credo che sia abbastanza presto e un po' troppo sbrigativo. Abbiamo dimostrato, credo, che pian piano, mettendo insieme i pezzi, siamo una squadra che può comunque fare una buona pallacanestro. Ripeto, non siamo forse più belli, però non siamo neanche quelli da bocciare dopo un mese e mezzo di campionato di Eurolega. Abbiamo avuto i nostri problemi, ci sono stati, cerchiamo anche magari dopo questo di risalire la china. Lo spirito del gruppo, come si è visto l'altra sera, è molto buono, quindi diamo il tempo a questi ragazzi di esprimersi al meglio, poi traremo le conclusioni un po' più avanti. È anche vero, Piero, che prima di questa partita si parlava già di una squadra che avrebbe cambiato, praticamente avrebbe cambiato faccia, insomma, si parlava di tantissimi movimenti di mercato. Queste partite possono aiutare a far cambiare idea anche da un certo punto di vista, oppure secondo te ci sono ancora delle lacune strutturali che vanno in qualche modo colmate e va aggiustato ancora qualcosa? Io penso che una società debba essere allerta in ogni momento, appunto per poter arrivare pronta a trovare l'occasione giusta se vuole avere il giocatore che ti può cambiare la stagione. Però, ripeto, deve essere un'occasione vera, quindi cambiare per cambiare non ha molto senso. In questo momento, ripeto, la squadra ha trovato solo ora quadratura, ha trovato solamente adesso tutti gli effettivi, stiamo lavorando adesso come dovevamo fare dell'inizio, che non abbiamo mai fatto, perché da Vitali a Bulleri, alla fine praticamente la scuola completa non abbiamo mai avuto. Passò l'altra sera, la prima partita dopo l'infortunio, ha dato un contributo notevole, abbiamo avuto effettivamente sotto tabelloni energia che è stata molto utile, e quindi in questo momento dobbiamo solamente cercare di incanalizzare tutte le energie che abbiamo nella giusta direzione per cercare di capire effettivamente che squadra siamo. Io tutto sommato ti posso dire che, al di là di qualche cosa che magari mi accorgo, di qualcosa dove non siamo perfetti, dove possiamo migliorare, ma realmente di qual è il valore di questa squadra lo scoprirò nelle prossime partite. Certo, coach, un'ultima cosa, il ruolo di Vitali in questa squadra, nel tuo pensiero, nella tua idea, nei tuoi programmi, cosa chiedi a Vitali in prospettiva in questa squadra? Minuti di qualità, in particolare nei finali di partita, come sta facendo bene ultimamente. Chiedo soprattutto appunto la sua capacità di guidare con serenità le partite nei momenti che contano. Questo è quello che effettivamente chiedo a Luca. Lo può fare anche se è giovane, magari non ha minuti di grandissima intensità, cioè 30 minuti di intensità forse non li ha, però gli chiedo qualità appunto per riuscire ad arrivare alla fine con lui in campo fresco, in maniera tale che possa guidare la squadra nel modo giusto, come ha fatto appunto diverse volte nelle ultime gare. Grazie coach, buon lavoro. Grazie a voi, ciao a tutti. A prestissimo, grazie a coach Piero Buchi, che un giorno o l'altro ha promesso verrà anche a trovarci qui in studio per chiacchierare con più calma. Quali ingredienti che mancano a Milano? Troppo facile lanciare il sasso e nascondere entrambe le mani, mi rimprovera Giuseppe, ma l'ho detto una montagna di volte e non vorrei essere ripetitivo, noioso, ma l'ho anche detto a Piero Buchi. Questa squadra secondo me manca un leader vero come carisma. Come carisma, come capacità di guidare la squadra nei momenti che contano, a tratti anche di caricarsi la squadra sulle spalle. Può diventarlo Hawkins? Magari sì, insomma, anche se secondo me non è un giocatore che ha le caratteristiche del leader. Molto discontinuo, l'altra sera abbiamo visto un secondo tempo spaventoso come tutta Milano, ma un primo tempo da zero punti, no Flavio? Sicuramente, secondo me manca anche a livello proprio di struttura qualche centimetro in più, qualche chilo in più. Posto il fatto che Papso sicuramente ha dato energia da quando è rientrato, però il solo Rocca non può sostenere da solo tutto il peso dei lunghi avversari, soprattutto in Eurolega, dove girano calibri assolutamente grossi, insomma. Quella dei centimetri è una pecca evidente di questa Milano, ma io credo che insomma, Bucchi l'avete sentito, no? La società è vigile sul mercato. Io credo che un lungo da Eurolega, anche se non di primissimo piano, arriverà comunque a completare questa squadra. Vittorio da Parma, buongiorno. Ciao a tutti e due. Ciao. E io premetto che non so niente di basket, vi seguo solo per la vostra simpatia e la vostra competenza. Però io mi volevo riallacciare alla telefonata di prima che parlava del perché si allontanano dai palazzetti. Io mi sono avvicinato al basket essendo tifoso del Napoli, sì. Mi sono affacciato al basket, diciamo così, quando c'era Caserta, vi ricordate la finale con Milano, sì, strepitoso, sì. Quel 3-2. Come no? Il problema è questo, che dico una cosa, le emozioni che dal basket sono mille volte superiori a quelle del calcio, sì. E non ci piove. Sì. Il problema dov'è? Che tu ti innamori di una squadra e poi dopo un anno o due non c'è più. Ma no, non c'è più, non ci sono più gli stessi giocatori, gli stessi interpreti, tu dici? Che il problema è che spariscono proprio queste squadre. Guarda, l'Eldo Napoli adesso non so dove sia. È sparita. Sparita. È questo il problema che volevo dire, no? Perché tu ti affezioni e poi una squadra. Adesso, per esempio, seguo solo quella del mio paese che si chiama Fulgor Fidenza, che non so se la conoscete. Certo, conosciamo. Certo. Perfetto, niente, volevo solo dire quello, che è il problema della pallavolo, via, che la squadra oggi è campione d'Italia e il prossimo anno chissà, non c'è più. Questo è successo, dipende, è successo anche per grazie Vittorio, è successo anche per piazze importantissime, Caserta, ma la stessa Virtus Bologna, certo. Lo ricordate mica tanto tempo fa, no? È passata dal tetto dell'Europa alla sparizione praticamente. Io mi ricordo quella clamorosa, oppure quella clamorosa di quell'anno di Reggio Calabria in cui era stato preso addirittura Recalcati Myers per fare una stagione clamorosa e poi Reggio Calabria sparì. Insomma, sai, io credo che queste siano ancora degli arretrati di tasse da pagare a un momento in cui il basket, un momento di molti anni fa, in cui il basket fece come la rana, no? Che si gonfiò a dismisura. Ricordate l'epoca del Messaggero di Brian Ferri, di Ferruzzi, eccetera. Era un'epoca in cui la pallacanestro ha speso. Quella era la punta dell'iceberg, ma ovviamente il movimento si è gonfiato tutto quanto, anche laddove non c'erano risorse sufficienti disponibili, e poi ha fatto il botto. E credo che la sparizione di Caserta, credo che anche quella stessa della Scavolini siano state ancora degli arretrati a quelle tasse, degli arretrati di tasse a quel momento di follia collettiva. Per il resto, insomma, vedo anche dei messaggi. C'era anche Milan-Lazio a San Siro. Secondo me le varie federazioni dovrebbero fare più attenzione. È vero, Milan-Lazio, però c'erano 3.000 spettatori. Forse c'era un migliaio di persone in più. Insomma. Meno di 1.000. Meno di 3.009, mi sembra. Palla spicchi. Era Brian Ferri, no. Era Danny Ferri, però c'era Brian Shaw. Sì, esatto. Li ho messi insieme. Insieme, esatto. Tra l'altro in quegli anni Roma ha avuto anche Michael Cooper, che era alla fine, sì, della carriera con i Los Angeles Lakers, quindi di nomi se ne erano fatti, c'era stato anche Dino Raja, Ricky Mahorn. Insomma, soldini li hanno spesi, qualcosina. Due soldini li hanno spesi e a ruota li hanno spesi anche tutti gli altri, quindi sempre questione degli arretrati di quelle tasse da pagare. 800 24 00 24, numero verde, ve lo ricordo, stanno arrivando altri ascoltatori, 349 238 6666 il numero per i messaggi SMS. Tra le notizie di settimana, prima in apertura ho detto temi a spicchi questa settimana tantissimi, c'è anche il cambio al vertice del settimanale del basket italiano, Superbasket. Franco Montoro lascia la direzione dopo 12 anni, nuovo direttore è Claudio Rimardi, in linea con noi. Buon pomeriggio Claudio. Ciao, buongiorno a tutti. E buon lavoro soprattutto e complimenti, congratulazioni per la nomina. Ti chiedo subito... Ti ringrazio. Niente, idee per il nuovo corso. Come sarà Superbasket in futuro? Come immagini il futuro di Superbasket? Ma quello lo immagino nel modo in cui già da 3 giorni sto cercando di farlo, ecco. Quindi, è come quando un allenatore subentra stagione in corso, no? Si trova una squadra avviata che probabilmente ha qualche problema, altrimenti non l'avrebbero chiamato. E cosa deve fare? Deve non rovinare quello che di buono c'era e personalizzare un po' la squadra, quindi è quello che sto facendo io, e poi chiaramente con il tempo la personalizzazione diventerà sempre più evidente, e credo che in qualche mese si vedrà anche in maniera abbastanza radicale. Penso che ci sia un po' di novità già dal primo numero, quello della prossima settimana. L'idea è di fare un giornale che si occupi di quelle cose un po' più da appassionati, che non possono essere seguite dai dai quotidiani o dai siti internet che battono ovviamente l'attualità, e quindi cercheremo di, non so, di portare la gente dentro gli spogliatoi, dentro la preparazione delle partite degli allenatori, cercheremo di far conoscere un po' meglio i personaggi o crearne dei personaggi. Bravissimo, quindi, bravissimo. Quindi questa è l'idea. Perché la pallacanestro italiana ha bisogno, ma lo sport in generale ha bisogno di personaggi, anche di scoprire personaggi che magari ci sono e che navigano nel sommerso tra riflettori spenti. Flavio, io volevo chiederti, Claudio, questo: quanto influisce il fatto che la pallacanestro, come tutti gli altri sport, corra tanto su internet per il vostro lavoro? Direi che non è facile confrontarvi con una realtà come quella della rete. No, non è facile, infatti la realtà, io faccio un esempio, che nel 1992 la stessa casa editrice che oggi fa Super Basket aveva ideato American Super Basket, e la cosa e il punto di forza di quella rivista lì era la possibilità di pubblicare a quei tempi mensilmente i box score delle partite NBA. E a quei tempi era l'unico modo per saperli, era comprare o Super Basket o appunto American Super Basket. Adesso la realtà è che se vuoi il box score di una partita lo puoi avere anche dopo tre possessi, dopo un quarto, dopo un minuto dopo la fine o un minuto prima, perché si aggiornano in tempi reali. Questo è chiaro che ha cambiato completamente lo scenario, sia dal punto di vista degli appassionati, ma anche giornalisticamente impone ovviamente delle correzioni che nascono da questa diffusione delle informazioni, che è veramente impressionante, soprattutto rispetto a quello che era anche solo 10 anni fa o 5 anni fa. Naturalmente. Io farei parlare anche gli ascoltatori che sono in linea. Gabriel da Roma, buonasera. Buonasera a voi. Intanto complimenti per la trasmissione e gli auguri al neo direttore. Sì, grazie. Allora, io intervenivo per due fondamentali cose. Per quello che riguarda gli spettatori nel basket, come diceva l'ascoltatore precedente, sì, e anche quello prima, credo che sia anche dovuto, a prescindere da tutto, prima di tutto una stagione sempre molto molto lunga, soprattutto per chi gioca le coppe come l'Eurolega. Io, tifoso della Virtus Roma, naturalmente ne so qualche cosa. Naturalmente il fatto di dover assistere a partite di campionato, Eurolega e quant'altro, molto spesso non porta al pieno e soprattutto non porta tanti spettatori ad arrivare con i soldi poi a vederle tutte, sì, in primo luogo. Secondo luogo, secondo me, il fatto di aver perso piazze storiche. Voi avete fatto l'esempio della Viola Reggio Calabria, avete fatto l'esempio di Napoli, come l'ascoltatore precedente. Io ci metterei dentro anche Livorno, che comunque ha avuto due squadre che poi fuse, che poi tutto quanto, certo, sono arrivate, una addirittura è arrivata in finale a perdere all'ultimo decimo di secondo su una palla strana. Quindi comunque un po' tutto quanto, credo che il fatto di aver perso piazze importanti, ma poi per fortuna Gabriel, poi a volte ritornano, anzi per fortuna ritornano quasi sempre, magari un po' con il tempo, un po' con calma, come è il caso della Rai Venezia, però per fortuna ritornano. Claudio, si è oggi aperto questo fronte della crisi degli spettatori proprio sulla scorta di un intervento di un ascoltatore di Livorno che diceva ma non è più il basket seguito appassionante di 10-15 allora, anni fa. Ma io sono livornese, quindi gli sono vicino a questo ascoltatore qui, e però credo anche che purtroppo Livorno sia un esempio che non è calzante, nel senso che ha vissuto per una decina di anni nettamente al di sopra delle sue possibilità. Questo è evidente, aveva due squadre di A1 e tutte e due facevano i playoff, una, come diceva l'ascoltatore poc'anzi, ha sfiorato lo scudetto, e in quel momento lì c'era un'altra squadra comunque di un certo livello nella stessa città, che è una città comunque piccola. La crisi del pubblico, secondo me, è una questione a macchia di leopardo, nel senso che ci sono piazze che vivono momenti buoni e poi ne vivono altri di stanca, perdono pubblico, però non so se è uniforme, perché proprio a Roma, ora l'ascoltatore era di Roma, qualche settimana fa ci sono state 9.000 persone per la partita con Siena. Ovviamente non gioca contro Siena tutte le volte. Io credo che i dati, anzi, di questa stagione indichino sostanzialmente la stabilità nel certo. numero di spettatori. Come quindi, accade da qualche stagione, peraltro. Sì, esatto. Non, è vero che non aumentano, però è anche vero che viviamo anche in un momento economico abbastanza particolare, quindi è già la tenuta, secondo me, è già un risultato positivo. Poi ripeto, dipende da piazza a piazza. È vero, abbiamo perso Reggio Calabria, però è anche vero che negli ultimi anni Reggio Calabria, al di là dei problemi, faceva pochissimi spettatori, quindi è più grave semmai la perdita di Napoli, che invece ha vissuto recentemente un periodo importante anche dal punto di vista delle affluenze. Questo certo. Direttore, ti chiedo ancora questo, una considerazione sul nostro comunque bistrattato basket, insomma ne abbiamo parlato spesso male, però in Europa stiamo andando benissimo, ben oltre le previsioni, Siena e Roma sono 5 su 6, Avellino è ancora in corsa, Milano adesso ha tutto il suo orgoglio, è tornata in corsa, stiamo andando oltre le previsioni in Eurolega. Ma io dico che c'è una specie di sindrome dell'autocritica anche eccessiva qualche volta, cioè che il basket abbia dei problemi è evidente, che questi problemi da un punto di vista tecnico vengano esasperati dal momento, anzi dalle ultime stagioni negative della nazionale dopo l'argento di Atene è sicuro, però questi risultati negativi della nazionale in questo momento hanno diffuso una sindrome del disfattismo che è anche eccessiva, perché la nazionale è sicuramente importante, è una parte fondamentale del movimento, ma non è tutto il movimento, gioca un mese, non ne gioca 12, gli altri 11 mesi il basket è nelle mani dei club. I club vengono a loro volta da un periodo in cui non hanno brillato tantissimo, però si vedono dei segni di progresso abbastanza evidenti. Lo scorso anno Siena ha fatto le Final Four di Eurolega, quest'anno globalmente la nostra partecipazione alle Coppe Europee è promettente, Roma che fatica in Italia incredibilmente vince in Europa, quindi è un po' il controsenso rispetto alle ultime stagioni, quando chi faceva l'Eurolega magari vinceva in Italia perché le avversarie comunque erano più deboli, poi faticava in Europa. Roma sta dimostrando che in questo momento fa più fatica a vincere in Italia che in Europa. Siena credo sia una delle prime due o tre squadre d'Europa e come dicevi prima Milano è stata la prima squadra in tutto il continente quest'anno a battere Mosca, sì. Ed è rientrata in corsa. Avellino, che è una debuttante con tutto quello che significa in Eurolega, e non possiamo far finta di non sapere che giocherà una partita decisiva col Maccabi, sì. Il peso politico del Maccabi dentro l'Eurolega è 100 volte quello di Avellino, quindi se devo essere sincero non mi aspetto delle grandi cose da ambientalmente, parlo sì. di arbitri proprio sì, per essere chiaro, però Avellino sta facendo un'Eurolega dignitosa che da debuttante è una cosa importante. No, il massimo nelle altre che... coppe c'è la Benetton che sta andando bene, la Virtus che sta andando bene in Euro Challenge, quindi direi che non è tutto così brutto come qualche volta diciamo. No, anzi i risultati sono lì da leggere, insomma. Grazie Claudio, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie a tutti, buongiorno. In bocca al lupo a Claudio Di Mardi, nuovo direttore di Superbasket. Palla spicchi. Come detto ripartiamo con Luca, da Reggio Emilia, buongiorno Luca. Sì, buongiorno, complimenti innanzitutto per la trasmissione. Grazie. Niente, io sono un tifoso della Pallacanestro Reggiana e volevo una vostra opinione sulla squadra anche dopo l'acquisto di Evtivons, che secondo me in Lega 2 può essere un gran bel centro. Ha perfettamente ragione Vasco Evtimov, in Lega 2 è rischia di essere un'arma illegale, specie se sta bene fisicamente, perché comunque ha una dimensione di centimetri e di chili che è fuori dal comune per quel campionato. Reggio Emilia sta facendo un'ottima stagione e soprattutto sta valorizzando, l'abbiamo detto diverse volte, alcuni prodotti del suo vivaio, e dunque è lì nel gruppone al terzo posto. C'è Varese appunto, punteggio pieno, Iesi al secondo posto e poi Casale, Reggio Emilia e Soresina. Queste sono le gerarchie. Esatto. Queste sono già emerse in Lega 2 le gerarchie del campionato, che mi avessero chiesto prima di partire quali erano le squadre favorite, beh basta leggere la classifica oggi. E pensa che c'è qualcuno che dice sarà un caso, ma noi siamo in Lega 2, dice a Varese, ci divertiamo di più, abbiamo più abbonati, scrive un ascoltatore. A proposito di Lega 2, ce n'è un altro che ci scrive da Venezia, Luca dice si parla di Ramaglia bagagli per la panchina della Reyer, che gloriosa Reyer, che ha cambiato allenatore, o meglio ha sollevato dall'incarico l'allenatore Dalmasson, che l'aveva portata in Lega 2. Adesso ci sono i vice che stanno guidando la squadra in attesa dell'ingaggio di Ramagli, e questo ascoltatore ci chiede qualche informazione in più. Insomma, Ramagli è un ottimo allenatore, ha avuto esperienze sulla panchina delle Benetton, ha portato la Scavolini dalla Lega 2 alla Serie A, tra l'altro salendo in corsa è stato protagonista delle ottime annate di Biella, quindi sicuramente un allenatore di livello, super allenatore, per questa Reyer, super allenatore per il campionato di Lega 2 e in generale. Secondo me Ramagli è un bravissimo allenatore e credo che potrebbe risolvere qualche problemino della Reyer, che in effetti sta facendo un campionato sottodimensionato rispetto al suo organico. Alberto Roma, buongiorno. Buonasera a voi e complimenti per la trasmissione, che naturalmente aiuta gli sport, soprattutto quelli cosiddetti minori, che minori non sono. Esatto. Io sono un dirigente sportivo e volevo sottolineare due aspetti fondamentali, poiché mi interesso ormai da tanti anni, e visto che voi avete menzionato prima il Messaggero e il Banco di Roma, vorrei ricordarvi un grande come Roberto Castellano, che oggi con la sua Basket Roma è una delle più grandi realtà di promozione, avviamento e diffusione del basket. Certo. Ed è colui, scusi se la interrompo, che ha insegnato a giocare a pallacanestro ad Andrea Bargnani. Bravissimo, e io ne sono doppiamente felice perché oltre ad essere un suo collega e amico sono stato anche un suo ex insegnante. Io mi interesso di impianti sportivi da oltre 30 anni e una delle carenze fondamentali che ritrovo a livello nazionale, ovviamente non voglio fare pubblicità al mio consorzio, ma che è ben noto a livello nazionale, io giro tutta l'Italia, è che le amministrazioni pubbliche nei progetti di impiantistica sportiva e dimenticano quasi sempre di mettere strutture polifunzionali quali quelle idonee al basket e alla pallavolo, non siano palazzetti che poi diventino cattedrali nel deserto. No, ma è verissimo, servono dei palazzetti che siano fruibili, però servono dei palazzetti, perché adesso andiamo a presentare la candidatura per chiediamo i mondiali 2014, poi ci confrontiamo con Spagna e Cina che sono i competitor e ci viene da piangere. Attualmente speriamo che tutto questo movimento porti a migliorare gli impianti, ma non vale naturalmente solo per il basket. Io chiuderei con il derby di Bologna che ci aspetta. Saluto e ringrazio una voce da derby come Andrea Mingardi. Ciao Andrea, grazie. Come va? Buongiorno. Non c'è male, piuttosto lì dalle tue parti come va? Com'è l'aria di derby a questo giro a Bologna? Sto andando verso Bellinzona, quindi non respiro ancora l'aria di derby. Sai, è molto sentita. Vincendo un derby si salva la panchina, si risolve parte della stagione, si dà un senso al progetto della squadra, mentre la Fortitudo deve trovare un equilibrio e di rilancio, insomma. E invece la Virtus aspira a diventare l'anti-Siena. E quindi queste due cose proporranno in questo meraviglioso Future Station, non so se conosci l'impianto. Sì, come no. Proporranno una partita che in fondo è una grande festa, perché Bologna rimane la capitale del basket, ecco. Ce la fai ad essere presente? Io gliela farò, anche se nel pomeriggio devo andare a Verona per registrare la trasmissione, il concerto di Natale. Abbiamo una joint insieme a Chiari Ciarelli, faremo l'Ave Maria di Schubert in versione classica e soul, ed è un disco questo che uscirà negli Stati Uniti all'inizio del prossimo anno, quindi faccio il derby e poi speriamo che vada bene, speriamo che vada bene anche per le corde vocali. Ti chiedo ancora questo Andrea, ma la tua Virtus è una specie di altalena, finale scudetto, poi fuori dai playoff, quest'anno secondo me è l'edizione più forte della Virtus targata Sabatini. Ma questo ancora non lo sappiamo, perché quella di Markowski è arrivata seconda con anche il rischio di contendere veramente a Siena, perché se tu ti ricordi che nella partita numero 3 come no, avremmo potuto, li stavamo mettendo in difficoltà, poi credo che sia stata l'ultima palla in mano a Best, insomma tutto è finito, poi è un sogno che è finito, ma era una squadra straordinariamente equilibrata, con fantasia, gestita in modo stupendo. Ecco, sai, questa è una squadra che Sabatini stupisce sempre, a parte che abbiamo il playmaker più alto della squadra di Biancaneve. Però buono. non avevo mai visto una cosa così, perché la prima volta che l'ho visto è che la squadra entra in campo accompagnandosi a dei bambini, no? Sì, sì. Era più alto di lui, ma non scherzo. Un bimbo che avrà avuto 12-13 anni che era più alto di lui, però è uno spettacolo, è la rivincita dei normotipi e poi insomma tutti gli altri intorno, mi è dispiaciuto per Brad Brisbane, ma tutti gli altri intorno secondo me sono giocatori che possono anche migliorare molto nel senso della squadra e darci grandi soddisfazioni, però per arrivare secondi e impensierire Siena c'è ancora della strada da fare. Non c'è dubbio, a partire dal derby. Buon derby Andrea, buon viaggio. Grazie, grazie. Buon basket. Grazie ad Andrea Mingardi, voce, una delle voci del derby di Bologna, che offrirà come sempre un parterre de Rouen non da poco. Facciamo appena in tempo a salutare Marco da Milano. Marco, buongiorno. Buongiorno. Mi sono perso un po' di trasmissione, anzi direi la maggior parte, quindi può essere che dica cose di cui avete già parlato o comunque... Non c'è problema. Una cosa veloce. Una mia convinzione sul come riportare il pubblico del basket a Milano. Io ho molto ben presente gli anni 80, 90, Peterson, la squadra che c'era all'epoca, sì. Simac, Tracer e quant'altro. Secondo me ci vuole comunque, al di là di quel leader di cui parlavate voi, inteso più che altro come interno alla squadra, sì. Ci vuole il grande nome, anche certo. Appunto che la non stella sia... l'abbiamo sempre detto, ci vuole la stella per fare Marco, io intendo leader non solo dentro al campo ma anche capopopolo, perché la Milano dei canestri, la grande Milano dei canestri l'ha sempre avuto, prima D'Antoni, poi Djordjevic, poi Gentile Bodiroga all'epoca dell'ultimo scudetto. Adesso quello manca a Milano ed è la smagliatura più evidente, l'abbiamo detto mille volte e continueremo a farlo. Però adesso chiudiamo il programma, Palla Spicchi torna venerdì prossimo, lo sport domani pomeriggio alle 17, grazie Flavio Suardi, alla prossima. Alla prossima. Grazie Gigi Borghi in redazione e a Fabio Cantadori in regia. Un saluto a tutti.